la prostata, per curarla bisogna trombare. Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Risparmieremo 4-5 miliardi e viene Lebettino domani a dirci che lui ci mette la faccia. Lui ci mette la faccia, il culo ce lo mettono i milanesi, capisci? Per Grillo bisogna chiudere tutto. Bisogna chiudere tutto l'Expo. E secondo me ha perfettamente ragione. Te lo dico subito, Parenzo, non cominciare a polemizzare. Sarà impossibile, sarà una cosa che ci fa fare una figura di cacca in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Non mi interessa. Non ne posso più di queste manifestazioni che vengono organizzate male, con i lavori che iniziano in ritardo, con le tangenti, con le mazzette, con le intermediazioni, con i ladri. Basta, non ne posso più. Renzi invece, giustamente, perché il Presidente del Consiglio non è che può dire arrivederci e grazie. Che cosa c'ha l'Italia? Ci sono, quando si arriva in questi passaggi, i sondaggisti, gli spin doctor, quelli che suggeriscono ai candidati che cosa fare. Io non sono candidato, ma sono il segretario del Partito Democratico, per cui mi dicono: oh, stai lontano dall'Expo, non ci metter la faccia, stai, non far capire che te ti interessa, che a te interessa l'Expo, perché oggi Expo significa corruzione nell'immaginario. A me questa cosa non interessa. Io posso perdere il 2%, il 3%, però non posso far perdere all'Italia l'occasione straordinaria. Diciamolo con chiarezza: l'Expo non sono i ladri che abbiamo visto. Trionfo dell'economia. Adesso ti mando qualcosa che ti farà impazzire, Parenzo, ti farà impazzire su Grillo. Riprendiamo questa discussione più avanti, c'è tempo, non ti preoccupare. C'è tempo. Non c'è tempo di poter stupirarti. Intanto Alfano e Renzi, nei confronti della questione immigrati, fanno come faceva Berlusconi all'epoca, cioè dicono l'Europa è colpa dell'Europa. Vero. Addirittura Renzi, quando lo diceva Berlusconi, è colpa dell'Europa, tutti dicevano: no, vergogna, c'è la Lega, è colpa vostra, fate morire la gente. Vero. Adesso invece Renzi dice la colpa è dell'Europa, addirittura dice l'Europa spende per le banche e non spende per salvare i bambini, cioè dice all'Europa che ammazza i bambini. C'è proprio una frase pazzesca, Renzi. Tipicamente berlusconiana. Noi dobbiamo dire all'Europa che non può salvare le banche e salvare gli stati e non salvare le mamme che hanno dei bambini e che sono richiedenti asilo e che vengono dalla guerra. Devono venire a darci una mano. Lo fanno i nostri uomini della Marina, lo fanno i nostri volontari. A proposito di immigrati, ieri sera a Tango, caro Parenzo, siamo tornati con Salvini sulla questione della scabbia. Sì, ho visto che della scabbia. Il signor Salvini ha augurato alla D'Amico e all'ara D'Amico di prendersi lei la scabbia. Sì, la roba di una pazzia. Prenditi tu la scabbia a casa, ha detto alla D'Amico. Io in realtà non l'ho difesa moltissimo, devo dire. No, come al solito. La tubercolosi e la scabbia non arrivano dalla Finlandia. Purtroppo, con una sanità arretrata in Nord Africa, evidentemente questa gente riporta malattie che noi avevamo sconfitto da anni. Purtroppo per loro e per noi. Mi viene veramente in mente quando noi andavamo negli Stati Uniti, per favore, dai, una retorica che abbiamo affrontato 150 milioni di volte. Roberto D'Agostino. Ma se la prenda lei la tubercolosi, se le piace, si prenda lei la tubercolosi e si diverta. Salvini. Torniamo un attimo a Berlusconi, anzi andiamo su Berlusconi, che dice questa mattina da Belpietro, Parenzo, che per Grillo sono pronti ad allargare i cessi. Questo è bello. Ma com'è bello? Questo vergognati! Bella battuta. Ma scusa, non ho capito, il comico può fare battute, dire lo psiconano, come cioè tu chiamava? Nel tuo astio nei confronti dei grillini, no, sei capace di dire che Berlusconi ha fatto una bella battuta, capito? Ma sono oggettivo, cioè se tolleriamo il fatto che il comico prestato alla politica possa dire vabbè, psiconano e Bettino, sentiamo chiunque, Berlusconi intanto, sentiamo Berlusconi, anche lui potrà fare battute, no? Sentiamo Berlusconi. Grillo, in Europa verrà messo in un angolo un deputato importante europeo, mi ha detto stiamo allargando i cessi perché li chiuderemo lì, perché è visto veramente per quello che è, un partito soltanto. Non voglio sapere chi sia il parlamentare, no, che gliel'ha detto. Non posso, segreto assoluto. Un partito solo di protesta e di distruzione. A proposito di cessi, Parenzo, questo è il tuo momento, eh? È il tuo momento. Senti cosa dice Grillo, che bisogna dire la verità. È l'unico che va in piazza, riempie le piazze in tutti, dalla una forza fisica formidabile. Vero, diciamo una forza fisica pazzesca. Ma la gente ha voglia di sentire due battute, di ridere. Certo. Va in piazza, dice qualsiasi cosa, è come uno spettacolo continuo ogni giorno, addirittura in due città. Ma ti credo che prende 25? Quando questo qua non ce la farà più, perché non ce la farà più, questi arriveranno al 5%, ma subito, in due secondi, forse anche allo 0%. Grillo e i cessi, questo è bellissimo. In Giappone, senti questa roba. E noi mettiamo mettiamo l'elettronica dentro le automobili? Quando facciamo le case di 40 anni fa, il nostro cesso è di 50 anni fa. Vai in Giappone, il cesso divide la pipì dalla cacca e fanno fertilizzanti da vendere. Con la pipì e la cacca. E poi ci sono dei cessi in Giappone che fanno l'analisi di quello che fai e mandano il reperto al tuo medico. Il tuo medico ti chiama e dice: cosa hai cagato stamattina? Guarda un po', stai mangiando male il frigorifero? La stessa cosa. Aspetta, Davide, fermo lì. Davide, fermo lì. Abbiamo con noi Michele Giarrusso, senatore 5 Stelle, buonasera. Mi siete mancati. Vedo che vi siete dati alla ceramica di lusso, credo. Come ceramica di lusso, scusi? I pezzi di cesso di quelli di, come si deve, ai tech, no? Beh, scusi, adesso, non penserà davvero che una delle soluzioni, Grillo, per carità, è un istrione, durante un comizio si dicono tante cose, ma non crederà anche lei che il futuro sarà un cesso che divide la pipì dalla cacca? Senatore Giarrusso, su. Allora, il recupero delle acque. Sì. Per uso non potabile, già lo fanno da 15 anni in Italia. Ma dove? Il problema dell'acqua, e lei lo sa, è un problema planetario. Attenzione, no, ci sono le case che recuperano l'acqua anche solo per utilizzare. Ma lei lo vuole a casa sua, lo vorrebbe o no un cesso che divide la pipì dalla cacca? Ma certamente, le case a recupero. Cioè noi siamo arretrati, preziosi. Siamo arretrati noi. Da questo punto di vista. Ma lei pensa, però le voglio dire una cosa, lei pensa che in questo momento il primo pensiero degli italiani sia la pipì o la cacca? No, che sta arrivando da Milano per l'Expo? Andiamo alla merda quella vera. Voi su questa roba qui, Giarrusso, siete un po'. Grillo ha detto la parola definitiva. Ha detto la parola definitiva, cioè dire l'Expo non si deve fare. Però prima qualcuno ha detto, credo, il vicepresidente della Camera Di Maio, no, ma insomma in qualche modo si deve fare, forse si deve sospendere, siete stati un po' altalenanti su questo, ma lei pensa davvero che si possa mettere la parola fine all'Expo a meno di un anno dall'inizio? Allora, quello a cui si deve mettere la parola fine è un circo equestre, parco giochi per mafiosi e tangentini. Vabbè, ma quello perché è chiaro. Fatto con i soldi degli italiani. Vabbè, ma quello siamo tutti d'accordo. Qualunque, i 60 milioni di cittadini italiani che non ne possono più, le dicono basta! Non vogliamo più che i nostri soldi vengano utilizzati per fare arricchire mafiosi e tangenti. Ma quello nessuno lo vuole. Ma non si può dire questo. No, invece cosa dicono? L'Expo si deve fare e per fare questo dobbiamo dare soldi a mafiosi e tangenti. Ma no. Ma quello... perché questo è il ricatto. E questo è... Ma pensi che mi dica la verità, fatto? Da domani... gli appalti. Sì, lo ma so. Ma lei lo sa che cosa li appalti. Lo so, ma da domani hanno lei... Hanno ritardato gli appalti per dire ora è troppo tardi, non dobbiamo applicare le norme sugli appalti. D'accordo, perché è tardi. Però... Giarrusso, e mi scusi. Così possiamo dare gli appalti agli amici degli amici. Al di là di questo, Giarrusso, lei pensa davvero che domani mattina? Io sono a favore della cancellazione dell'Expo, glielo dico subito. Figurati. Sono d'accordo sul fatto che Grillo dice una parola chiara, che tutti capiscono, no all'Expo, e in campagna elettorale ci può anche stare. Posso anche essere d'accordo, ma lei pensa davvero che da domani uno possa mettere la parola definitiva all'Expo quando tutto è già avviato? Beh, sia serio, su. No, dobbiamo, no, ma qua dobbiamo, ma questo essere Grillo noi ha un detto paese serio. Noi non siamo un paese serio, un paese che consegna le uniche poche risorse libere disponibili a un caravanserraglio di quello, quando abbiamo studenti che muoiono a vabbè scuola perché gli cade in testa il vabbè tetto della propria classe, è da criminali, dunque, è da folli. Ma e dunque, non si può dire in questo paese. E che facciamo oggi? Adesso che facciamo? Si può bloccare o no l'Expo? Allora, adesso bisogna fare pagare il conto a tutti quelli che hanno banchettato vabbè sull'Expo. Sì, ma e il 25 maggio il conto glielo faranno vabbè pagare gli italiani. Ma Grillo, ma Grillo di paesi di tutto il mondo che stanno venendo qui, che stanno costruendo l'esposizione universale. Cosa Grillo dice, dice gli Stati Uniti? Questo non abbiamo niente. L'esposizione universale è il nostro biglietto da visita. E sa quale sarà il biglietto da visita? Mafiosi e tangentisti. Questo è, e questo è il biglietto da visita che noi vogliamo. E allora, nel e allora che si fa adesso? No, lei mi deve dire, al di là del fatto di punire i corrotti, quello lo sappiamo, si può bloccare l'Expo, sì o no? Allora, per capire che cosa vabbè si può fare, vede che lei non risponde, bisogna però vedere a che punto è la merda. Ma Grillo ha detto bisogna vedere fino a che punto è compromessa la situazione. Ma Grillo ha detto che bisogna bloccare. Chi ha detto questo è perché ritiene che la situazione è troppo compromessa per fargli mangiare ancora i soldi. Con quei soldi si poteva dare reddito di cittadinanza, si poteva dare aiuto agli imprenditori che erano in difficoltà. Noi abbiamo aiutato tangentisti e corrotti. Questo non è abbiamo procurato ricchezza a questo paese, l'abbiamo impoverito. Ma questo è il passato. Grillo dice no, che no, stamattina ancora no, sono so a mangiarsi i soldi. Ma che lei pensa che hanno finito di mangiarsi vabbè i soldi? Ma questo che si fa adesso? Lo possiamo bloccare o no? Con che lo blocchiamo? Dobbiamo fare tutto quello che possiamo vabbè, per non far andare più un euro nella tasca delle vabbè, persone sbagliate. Lei non dice una parola definitiva. L'Expo va interrotto. No, la parola definitiva è definitiva. Un euro a mafiosi e tangenti. Vabbè, ma questo, ma quello nessuno ma tu, non è definitivo. No, quello nessuno, poi insieme distinguo. No. Però l'Expo si deve fare e quindi facciamogli mangiare invece, i soldi. E invece? Non gli possiamo far mangiare i soldi. E in che modo? Allora, allora dobbiamo bloccare noi l'Expo. Noi stiamo strangolando i cittadini, togliendogli quel poco niente che nemmeno hanno. Noi la gente pignoriamo le case per le multe, per mettere poi questi soldi in quel porcaio. Va ma bene, perché non glielo chiede a uno che gli hanno tolto la casa perché non aveva più da pagare? Un attimo solo. Vuole che i suoi soldi vengano mangiati all'Expo. È ancora a casa. Oh, avete sentito? Sì, Dell'Utri oggi è stato interrogato, però è ancora là. La procedura di estradizione continua. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Michele Giarrusso è un senatore del Movimento 5 Stelle, siciliano come Dell'Utri. Se dico come Dell'Utri, Giarrusso, come reagisce lei? Siciliano? Malissimo, malissimo. Cioè, si vergogna di essere accostato? Io mi vergogno moltissimo di siciliani come questi. Addirittura? Miei siciliani si chiamano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, non questa gente qua. Questa gente non merita nemmeno di essere chiamata italiana o siciliana. Addirittura beh, italiana, certo. Dai, ma certo, sì. Allora torniamo all'Expo. No, aspetti, aspetti, aspetti un attimo, Giarrusso, andiamo un attimo su Dell'Utri perché è un altro argomento di attualità. Secondo lei che cosa bisogna fare? Andarla a prendere con le forze speciali se non tornasse? Guardi, Dell'Utri è là in Libano perché là ci sono gli amici suoi massoni che lo stanno aiutando. Massoni adesso? La magistratura. Vabbè. Quindi noi dobbiamo pretendere, ma sarà difficile, da un paese come il Libano che sì ci rispetti e ci restituisca vabbè Dell'Utri. Però siccome l'Italia a livello internazionale non è rispettata da nessuno, non conta nulla, non conta nulla nemmeno da gente come ovviamente. Ma per andarlo, secondo lei, per andarlo a prendere dobbiamo affidarci pure a cose come facevano gli israeliani una volta, si ricorda? Guardi, quelli sono mezzi, quelli sono mezzi estremi. Noi siamo pacifici, noi pensiamo che per poter prendere Dell'Utri l'Italia deve avere all'estero un'immagine nuova. Cioè, se ci fosse Grillo presidente del Consiglio, Dell'Utri sarebbe allora più facile. Ascolti, Grillo non ha mai detto che vuole essere presidente del Consiglio. Vabbè, se noi avessimo presidente del Consiglio persone serie e noi fossimo rispettati a livello internazionale, cioè se i 5 Stelle fossero a governo, non con l'Expo della mafia, va bene, e della, però noi e siamo delle tangenti, ma con cose serie, sì, queste cose nemmeno si verrebbero a cioè discutere. Se i 5 Stelle fossero al governo sarebbe più facile stradare Dell'Utri? Ma sicuramente, ma se lei pensa ma che come? Allora, se lei pensasse un attimo, Dell'Utri fosse un ricercato negli Stati Uniti, in quanti minuti, secondi sarebbe stato estradato negli 5 Stati secondi, Uniti? 5 secondi, 5 secondi. Allora, noi dobbiamo diventare un paese serio. Ma volete un paese serio, non è quello. Si sono mangiate tutte le cose, ormai facciamogliele finire di mangiare a tangentisti e mafiosi. Senta, se lei avesse di fronte Dell'Utri, che cosa gli direbbe, senatore Giarrusso? Da siciliano a siciliano. Vergognati quello che ha fatto al suo paese e alla sua terra. Ma scusi un attimo, perché ma restituisca tutto quello che si è mangiato. Beh, mangiato, dell'utile, per adesso non si è mangiato niente. Però scusi, lui, Matacena, Agenè, di gente. Ciao, che non parliamo del signor Formigone, che hanno sequestrato 49 milioni di euro. Ma lui dice che non c'è una lira nel conto. No, a sua insaputa, ma lei era milionario a sua insaputa, e noi a sua insaputa gliele togliamo. A lui e a tanti altri, questi devono essere. Come glieli togliete questi soldi? Scusi, già. Guardi, c'è una legge, una legge. Ma che volete fare i processi per davvero? La Torre, si chiama la legge La Torre. Ah sì, ma quello che c'entra? No, c'entra, perché è la stessa cosa. I mafiosi che hanno beni di cui non riescono a dimostrare la lecita provenienza, accade che questi beni lo Stato glieli confisca. Noi dobbiamo fare lo stesso con i politici. C'è un precedente, questi hanno rubato. Ma lei dell'utile fa schifo? Come persona dell'Utri fa schifo? Le fa schifo? Guardi, io personalmente non ho il dispiacere di conoscerlo. Sì. Tutta la sua storia non depone certamente per l'apprezzabilità dell'uomo. Senta una cosa, ma Grillo alla fine ci va o non ci va da Vespa? Perché prima voi avete sempre criticato Vespa. È come il quarto segreto di Fatima. Cioè? Lo scoprirete nella prossima vita. Lo scopriremo solo vivendo. Sì. Ma secondo lei ci deve andare o no, senatore Giarrusso? Secondo me sì, perché io mi sono divertito da Vespa, devo dire. Si ricorda? Per cui Vespa è meglio di Santoro. Casini è stato grandioso, devo dire. Quando ha ammesso che erano tanti anni che batteva il marciapiede, lui e gli altri, è stato fantastico. Chi? Casini. Sì, ha ragione, Casini chi? Quello che è lo 0,01%. No, infatti, vai, scusi. Ma non ho capito, dicevate che era il peggior giornalista, il cucchiaio di legno, l'avete dato sul web come voto, Vespa, la terza camera, l'emblema del potere, adesso Grillo deve andare da Vespa. Mi ascolti, noi abbiamo questo sistema televisivo e lo vogliamo cambiare. Abbiamo il problema di arrivare ai cittadini. Abbiamo il problema che tanti programmi c'è uno strumento, è uno strumento, va utilizzato. Cioè, una volta che è arrivato al governo, Vespa è uno di quei programmi che fate fuori nella nuova Rai, che ne so, o no? Ma tra le cattive intenzioni si dice che è meglio non dirle prima. Cioè, forse per lei non dovrebbe stare, nel palinsesto della Rai non ci dovrebbe essere lei un programma. Lei pensa che le direi tutte le mie cattive intenzioni? Però io lo so che lei lo pensa. Cioè, se voi... Fossero solo queste le peggiori intenzioni. Cioè, una volta arrivati lì, via Vespa... È un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, quello da chiudere subito. Ma però quella è una cosa privata. Ma si trova il modo, si trova. Ma come si trova il modo? Perché non Giarrusso, perché non mettete Mandarà al posto di Porta a Porta? Bellissimo, Salvo Mandarà, la TV, come si chiama? Mandarà. No. La cosa. Mettete La Cosa al posto di Porta a Porta, La Cosa. Non sarebbe meglio? Ma il povero Salvo, ma che simpatico, ma no. Però scusi un attimo, ma dunque voi utilizzate Vespa per arrivare, diciamo, ai cittadini. Però Vespa non lo potete vedere, diciamo la verità, una specie di taxi Vespa. È un taxi. Giarrusso, su. Quello dell'editore di riferimento, se lo ricordo la frase, il tuo editore di riferimento, appunto, io me la ricordo. Appunto. Io ho questo brutto vizio, la memoria. Per cui Vespa per voi è l'emblema, la quintessenza del male, diciamo la verità. Guardi, se lei sta armando un bel piatto avvelenato. No, che bel piatto avvelenato. Beppe, è lunedì. No. Io tranquillo che non ci sono bisogno delle mie parole per armarlo, no. Cioè, non capito, va là a fare casino? Giarrusso, va là a fare casino, che fa? Vabbè, ma noi siamo qua per fare un gran casino. E se non facciamo casino, questi non se ne vanno. Ma si siede sulla sedia bianca o no? Cioè, sulle poltrone bianche? Guardi, questo lo ignoro, come diceva sul tuo. Non so questo lo ignoro, con la voce va, questo lo ignoro. Va bene, Giarrusso, devo chiudere. L'abbraccio, a presto. Mi siete mancati, ritornate più spesso. Lei però non sgancia niente, ogni tanto sgancia qualche bombetta, così di quelle, sa, a mano, così. A presto, l'abbraccio, a presto. Va bene, un abbraccio, buona serata. La trasmissione è sempre la migliore. Mamma mia, che orrori, che orrori. È un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, quello da chiudere subito, guarda, chiudere. Fermi tutti, caro Parenzo. Guarda che ti ho scovato. Guarda cosa mi hanno scovato, amico mio. Indignato ma fermissimo. No, aspetta, alza la voce. No, dico indignato ma fermissimo. Ma indignato da che? Scusa, non ho capito. Ma indignato da tutto quello che abbiamo sentito. Cessi che devono portare le feci direttamente. Maestro, torniamo subito. Ma guarda, Expo che deve chiudere. Ma vai avanti, andiamo, aggiungiamo. Cioè, stai dicendo che Grillo è un cialtrone? Ma cialtrone. Aggiungi altra melma, aggiungi. C'è più di un cialtrone, che cos'è? Aggiungi altra melma, su, cosa ci sarà adesso? No. Cosa devi chiudere adesso? Cos'è? Dimmi. Vai dai cinesi e dici, ma col cazzo è a casa vostra, non venite a Milano, dai cinesi, dagli americani, ma chi che vuole? Ma quale Expo? Facciamo solo. Ha ragione lui, è una vergogna questa Expo, non serve a nulla, a sei nulla. Ormai a nulla. Di casa la Girettite. Sei proprio di? Casaleggio dentro. Ma figurati, manco lo conosco. Aspetta un attimo. Senti, questo qui è il candidato del Partito Democratico. Cioè non un grillino, non un matto, non quelli dei microchip. Il candidato del Partito Democratico alla presidenza della regione Abruzzo. È uno che ha avuto diversi guai giudiziari, li ha ancora, in parte è stato assolto, in parte ha ancora delle pendenze in corso. Si chiama Luciano D'Alfonso, ex potentissimo sindaco di Pescara, che fu costretto addirittura alle dimissioni dopo uno scandalo giudiziario. Oggi è di nuovo in sella, si candida a guidare l'Abruzzo. Senti di cosa ha paura. Secondo lui ci sarebbe un'invasione degli UFO pronta lì per l'Abruzzo, eh? C'è l'invasione degli UFO in Abruzzo, dai, non ci posso credere. Il mare Adriatico sarà il parco più grande di cui dispone l'Abruzzo e noi lo rispetteremo come è giusto che accada, sia dalle invasioni degli UFO, perché ci sono UFO che si sono messi in cammino, ma poi riconcilieremo l'acqua salata del mare con l'acqua dolce dei fiumi. Davvero Parenzo, davvero? Scusa. Candidato gli UFO che si sono messi in cammino. O sta scherzando, ci sta prendendo per il culo. Vai, oppure spero. Questo signore è vero che agli UFO ci crede anche Borghezio, che vuole al Parlamento Europeo tirare fuori dai cassetti tutto quello che gli stati nascondono, secondo lui, sugli UFO. Ma qui siamo addirittura a un livello peggiore. Hai fatto bene, è del PD questo signore. Sì, qui, PD, gli UFO che PD. Si sono messi in cammino. Gli UFO che si sono messi in cammino. Ma amici UFO, abruzzesi, da dove arrivano questi UFO? In cammino verso dove? Verso l'Abruzzo. Ma l'UFO, cosa va a fare un UFO in Abruzzo poi? Perché se ammesso che esista l'UFO, no? Cosa va a fare in Abruzzo un UFO? In Abruzzo, con tutto il posto dove può andare. Ma in Abruzzo perché deve andare? Però non è l'unica cosa a che ha detto. A mangiare gli arrosticini di pecora può andare in Abruzzo poi. L'UFO arriva. Aspetta, non è l'unica cosa che ha detto. C'era in Abruzzo. Fermo, no? Senti. Il primo punto di forza che ha l'Abruzzo è la nostra limitata consistenza demografica. Poiché siamo soltanto 1.320.000 persone, noi possiamo arrivare a offrire coccole ai cittadini. Metteremo, e l'ho detto e l'ho proposto, un forestale per ogni albero. Applausi! Coccole dal punto di vista del diritto alla salute. Ah sì? E allora mente una promessa. Se l'ospedale è pieno di topi, io porterò i gatti. Coccole per quanto riguarda il prodotto sanitario ad alta densità medicale, quando serve un intervento per acuzie o da acuzie. Non le dico, Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo bitumata, ha lo scappellamento a destra. Noi possiamo arrivare a prendere in braccio il paziente, a condurlo come uno sportello unico sanitario. E questa è una promessa, promessamente. Votate Cettola qualunque, è stata detta. Questo è il candidato del Partito Democratico, titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi a Milano, andiamo avanti con decisione perché è lo stato più forte dei ladri. Il governo non mollerà la sfida dell'Expo. Grillo chiede di fermare l'Expo, c'è una rapina in corso ma li bloccheremo, la magistratura si muove perché ci siamo noi. Nuovi indagati nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex ministro Scajola, venerdì l'interrogatorio, indagine del Viminale anche sulla scorta. Berlusconi insulta Grillo a Bruxelles, allargano i cessi per quelli del Movimento 5 Stelle. Forza Italia torna all'attacco sul presunto complotto del 2011. Attesa a Catania la nave della Marina con i 206 sopravvissuti al naufragio nel canale di Sicilia, 17 i morti, si cercano decine di dispersi. Scontro sull'immigrazione, l'Italia faccia sapere ciò che vuole, dice l'Unione Europea. Replica di Alfano, abbiamo sempre dato indicazioni precise, da Bruxelles parole provocatorie. Crocette messe a caso, fogli bianchi, da nord a sud gli studenti delle superiori boicottano i test invalsi, considerati inutili, con loro anche molti professori. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. Le clamorose dichiarazioni di Pippo Baudo ieri alla Zanzara. Partiamo dallo calcio, caro Parenzo, perché te so che sei un po' allergico, però guarda che i tifosi juventini sono incazzati neri, dicono che Baudo alla fine non è proprio un tifoso doc. Sì, ma non è l'unico che dice questo. Senti, eh, senti cosa dice. No, no, no, io che Juve non glieli do alla Juve, io glielo ho detto anche a Edoardo Agnelli, quei due mi sono stati tolti perché è stata accertata una corruzione con la condanna del signor Moggi che ha comprato le partite, quindi è inutile tornare sempre su quei due scudetti, non ci sono stati, avete fatto la Serie B. Moggi condannato in via definitiva, però non era vero, eh? No, Moggi è stato condannato, è stato ritenuto colpevole di corruzione e poi con sentenza passata in giudicato, e le sentenze sono sentenze. Io sono laureato in giurisprudenza, per me la sentenza è un diktat. Tifosi della Juve incazzatissimi, però io non ho chiesto a Michele Giarrusso, senatore Movimento 5 Stelle, una cosa, caro Giarrusso. Berlusconi oggi ha detto che stanno allargando i cessi a Strasburgo per aspettare quelli dei 5 Stelle. Vabbè, siamo in campagna elettorale, ma stanno allargando i cessi, questo ha detto Berlusconi. Poverino, ormai è andato. Berlusconi è andato. Ma in che senso è andato? Ma è andato di testa, evidentemente. È rincoglionito, dice. È rincoglionito. Penso proprio di sì, temo di sì, ma insomma lo stanno abbandonando ormai tutti, a parte Dudu che insomma. Sì. Se non avessi il guinzaglio già sarebbe a spassarsela da qualche altra parte. Cioè lei dice Dudu resta lì con Berlusconi solo perché lo trattengono a forza col guinzaglio. Esattamente. Altrimenti scapperebbe pure lui, dice. Ma no, ma basta vedere le facce dei poveri anziani che hanno subito la condanna dal Tribunale di Milano a questa pena aggiuntiva, dico, non ci ma, basta. Ah, perché sono in una casa di riposo, li puniscono. Non riescono a capire quale reato abbiano commesso per vedersi arrivare un noto pregiudicato e tutto il caravanserraglio. Beh, bisogna dire che hanno l'Alzheimer, dunque magari no. Non lo riconoscono, no, però di infastidirsi di infastidirsi. Cioè dice pure quelli con l'Alzheimer alla fine, senza offendere per carità, dice riconoscono Berlusconi. Sì, ma quello ti fa riconoscere. Scusi, ma secondo lei una condanna a 7 giorni, cioè Berlusconi dove dovrebbe stare secondo lei? Ma guardi, nelle patrie? Nelle patrie? Io ho detto che dovrebbe stare nelle patrie galere. Patrie galere. E non a disturbare i poveri anziani. Ma la domenica, insomma, la domenica è il giorno del riposo. Beh, ma dice che adesso vuole trovare nuove cure per l'Alzheimer, forse regalerà dei soldi. Le dentiere per tutti. Guardi, manca solo la frase di Cettola qualunque, che non ripeto per carità di patria, però... Più pilu per tutti, no? L'ha detto lei, io mi associo, manca solo questo, guardi. Poi, ma io non dubito che l'ultimo giorno arriverà di campagna elettorale più figa per tutti. Prometterà anche quello. Prometterà alla fine prometterà pure la figa per tutti, lo dico io. Sì, sicuramente. Però scusi, Giarrusso, quella frase di oggi è in realtà Berlusconi ha detto che gli hanno raccontato sì, che un parlamentare europeo che stanno allargando proprio i cessi, cioè stanno allargando al Parlamento europeo i cessi. È una frase pazzesca. Ma è una cosa incredibile, veramente, ma non so da dove gli è venuto poi questo abbinamento, non lo so, ma veramente, ma questo è veramente curioso, cioè lui abbina, no, ma è da un po' che c'ha questa mania del cesso, perché mi dicono che andato nella casa di riposo pretendeva di avere un cesso tutto per lui. Ora lui pensa magari che gli altri siano come lui, no? Una volta eletti hanno bisogno del cesso personale. Dobbiamo smentirlo, noi siamo come tutti gli altri esseri umani, andiamo nei cessi comuni, ecco, non abbiamo. Comunque stanno allargando i cessi. Poi che cosa vuol dire stanno? Parenzo, tu l'hai capito, stanno allargando i cessi per Grillo. Ma che no, vuol ma dire? Voglio dire, ma no, questo non ho capito, ma voglio dire a Gianrusso, però, che ha il senso dell'umorismo, il suo leader, il signor Beppe Grillo, è uno che ogni due minuti dai suoi comizi fa anche lui fa le stesse cose, ha ragione Parenzo da questo. No, ma non sono proprio le stesse, quantomeno quando le dice Beppe si ride alla grande, non so, ma questa qua veramente, cioè, che uno come lei, Cruciani, non riesca a ridere, non riesca a capire il senso della battuta di Berlusconi, no, dice lui, questa volta non l'ho capito, questa volta francamente non l'ho capito. Berlusconi ma non l'ha capito quasi nessuno. Ma no, ha detto lui, no? Stanno ampliando i cessi perché rinchiuderanno dentro i deputati. Questo sì, metteranno dentro nel cesso, rinchiudono. Sì, sì. Secondo me lui non dorme più la notte. Vedi, ah, è quello. Comunque, al pensiero che noi prendiamo il potere, lui ha queste visioni. Ma con voi al governo Berlusconi sarebbe in galera subito? Secondo me un attimo prima sarebbe nella red line che stanno testando per scappare in Libano. Ah, dice lei, appena state per arrivare lì, prima, poco prima, dopo, il giorno dopo le elezioni, che voi magari vincete le elezioni, eccetera, già è pronto a scappare per il Libano, dice lei. Sì, stanno testando la red line, lui e tanti altri. Sono però una radio del dissenso come la nostra, una piccola radio Londra, ce la esatto, lascia. Ce la lasciate la zanzara come radio del la dissenso? Londra. Ma sicuramente lei può credermi sulla parola. Lei lo sa che ai politici si può credere sulla parola. Beh, no? Quindi lei sia sereno, sereno. Possiamo stare tranquilli. Vabbè, grazie, sereni, grazie sereni. Gianluca. Sia sereno, Cruciani, continuerà su questa strada. Grazie, grazie. Messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? E che sarà mai? Solo perché ho detto che c'è la libertà di prostituirsi e che la prostituzione è un mestiere come un altro, come la fare il cambio. Vada a farlo lei, perché lo fa lei? Ma guardi, non ho nessun tipo di problema, faccio questo di mestiere, mi è capitato fare questo, ma è un mestiere degno, perché gettare discredito sulla prostituzione? Questo ho sostenuto, è un mestiere come un altro, come fare il cameriere, come fare il manager, in altri paesi è codificato, eppure c'è tanto perbenismo, quello della signora, vabbè lasciamo perdere, va. Così Annarella risponde alla proposta di Berlusconi sulle dentiere per tutti, la mitica Annarella, sentite. Facciamo questo. Hai bisogno della dentiera? Qui Berlusconi ha detto che distribuisce dentiere. Ma che nasce a fanculo, dia che fa a mettersi lui. Hai capito, Berlusconi? Ha rotto i coglioni, che ancora si fate del giro, ma se vergogna che tutti quelli del nord hanno rubato tutti gli amici suoi, di Forza Italia. Non me la dentiera non me la farei mai dare da Berlusconi. Tu hai una dentiera, immagino, no? Sì che ce l'ho, però da lui non me la farei mai là, perché è un figlio della rignotta. Ma non c'è credo, ma quello è un buffone! Quello è un buffone, ci ha mandato per l'aria lui e quel delinquente che è morto laggiù. E chi? Quello stronzo che è nato là, non è nato là. Bettino grazie. Sono piccole e signose, fastidiose, le zanzare. Oltre 1000 Riccardo da Roma, oltre 1000 iscritti a Riccardo da Roma Fans Club, questo ha detto Suanarella. Quella vecchia babbiona, ma che ha detto prima, che è andata in pensione nel 75? Cioè siamo nel 2014, sono 40 anni che sta in pensione. Quanti anni c'hai? Quanti anni c'ha? Quella che ha detto una volta che c'aveva 68 anni, 69 anni, sono 40 anni che sta in pensione, ma chi li fotte i soldi agli italiani? Te o Berlusconi? Babbiona! Pensa che più di una ballerina! Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Cioè i comunisti prima hanno sfondato un paese per 40 anni, l'hanno ridotto un cesso, e adesso parlano di meritocrazia? Loro che hanno diviso l'Italia in due, ci sono gli statali che non li puoi fare un cazzo, non li puoi licenziare, non li puoi mandare via, gli devi dare lo stipendio pure se rubano, e poi ci siamo tutti noi di serie B, sì, anzi CZ, no? A seconda della condizione. E loro però dicono che mo ci deve essere la meritocrazia. Ma vaffanculo, va, ma vaffanculo. Però ti farei risentire, caro Parenzo, il grillo sul Giappone. Lascia perdere Annarella, dai, su. No, Annarella, questo fine editorialista che tu hai. Ma Riccardo è il numero uno. Oltre mille hanno aderito a... Ma non c'entra che mille persone hanno aderito. Che vuol dire mille persone? Che infatti sono mille cornuti, scusami, ma che maltrattano. C'è uno che dice like a quello che ha detto questo simpatico, per carità, Riccardo, che maltratta la povera Annarella. Una vabbè, allora non ho capito. Ha parlato male di Annarella, che non si può adesso. Ma questa vecchia babbiona, ma come si permette, Riccardo? E quando diventerà lui vecchio? Quando diventerà vecchio, parleranno così di lui. Ma ho capito, ma non parlava delle vecchie in generale. Non è che l'attaccava in quanto vecchia per le cose che diceva. No, ha detto è andata in pensione da 40 anni. È una signora anziana. Ma come vecchia, bambino? Ma come si permette? Facciamo quel che ci pare. Intanto oggi, prima di risentire Grillo, devo dire al popolo della Zanzara che ci sono queste voci, queste rivelazioni clamorose da parte dell'ex segretario al tesoro americano Geithner sul fatto che in Europa si preparava il complotto contro Berlusconi, diciamo la verità, no? Cioè si preparava il complottone contro Berlusconi, cioè chiedevano aiuto per far cadere Berlusconi. Queste cose però bisogna, al di là del fatto che Berlusconi era già screditato, c'erano le vicende interne nella coalizione che lo avevano un po' messo in difficoltà, la questione delle mignotte, tutto quello che vuoi, però c'era qualcuno che complottava per farlo cadere giù. Ma sì, ormai è accertato, no? Che vuol dire? Cosa vuol dire? Tramava per farlo cadere, altri paesi volevano che cadesse. O si dimostra che l'America ha in qualche modo... No, l'America non c'entra niente in questo caso, l'America... E allora, di quale complotto stiamo parlando? Cioè, Geithner dice un'altra cosa. Senti, fosse accaduto a un altro governo ci sarebbe un casino. Siccome tutti quanti volevano, volevano Berlusconi giù in quel momento, allora sì, adesso fa comodo dimenticare. Italiani, molti partiti italiani dentro la sua stessa coalizione. Vabbè, senti, fammi sentire Grillo successi, va. E noi mettiamo mettiamo l'elettronica dentro le automobili? Quando facciamo le case di 40 anni fa, il nostro cesso è di 50 anni fa. Vai in Giappone, il cesso divide la pipì dalla cacca e fanno fertilizzanti da vendere. Con la pipì e la cacca. E poi ci sono dei cessi in Giappone che fanno l'analisi di quello che fai e mandano il reperto al tuo medico. Il tuo medico ti chiama e dice: cosa hai cagato stamattina? Guarda un po', stai mangiando male il frigorifero, la stessa cosa. Ma ragazzi, comunque io avrei il terrore di vivere così. Cioè tu caghi, pisci la mattina, esce la roba e va subito all'analisi del medico. Ma che vita è? Cioè, ma dai, è una vita d'inferno, dai. Grillo, ma lui l'ha messo a casa sua, è successo un casino, sua moglie se n'è andata. No, a casa mia sono più avanti. Non c'è neanche più il cesso, c'è un grande giardino. Fanno tutti, defecano, non c'è più nessuno, ma sono andati via tutti, ma si defeca nel giardino direttamente, lì. E la pipì la si usa, la si mette nel freezer e la si beve ogni tanto, perché è un drink fresco, pesante, si rispa. Ma è così, ovunque è così. Ma non è vero! Si chiama vita sostenibile, chilometro zero, ma di che parli? Di che parli? Senti questa roba qui sulla forchetta, dice: io veramente a vivere così mi verrebbe il terrore, ma meglio le forchette quelle normali dell'IKEA, se pagano mezzo euro. Lui invece ha una forchetta tecnologica. Senti, io a casa c'ho una forchetta che se mangio veloce vibra e mi dice: che cazzo stai facendo? Poi non digerisci e te la prendi con chi? C'è lo spazzolino che ma veramente, sono già in commercio gli spazzolini che lavi i denti e poi lo attacchi a un telefonino e ti dice come ti sei lavato i denti. Ragazzi, adesso questo non esiste, dai, uno spazzolino che si attacca al telefonino e ti dice come ti sei lavati, dai, su. E poi dici che io lo prendo in giro. La forchetta che dice se mangi troppo veloce, ma di che stiamo parlando? Ma dai. Certo! No, ma esiste, è in commercio, sicuro, però basta! Cioè. Ma ovunque c'è, ovunque! Ma non è vero che c'è ovunque, non è vero! Voglio mangiare in pace senza la forchetta che mi dice quanto mangio! C'è la forchetta che vibra nella bocca, mentre ce l'hai in bocca poi ti spacca tutti i denti e le gengive, ma vibra intanto! Vabbè, dai. Andrea da Genova, su. Buonasera. Dica. Io volevo solo fare una considerazione con l'onorevole Gianrusso, credo che si chiama. No, è andato via Gianrusso, su. Vabbè, no, ma su quello che ha detto. Eh? Loro non hanno il minimo rispetto per nessuna istituzione. La politica di Grillo, che tutti abbiamo pensato fosse una politica innovativa, è basata soltanto sulla politica del chi ce l'ha più piccolo e quindi delle vecchie battutacce che ha sempre fatto nei suoi spettacoli. Non ha mai preso l'opportunità che ha avuto per fare qualcosa. In più, lui continua soltanto a fare degli spettacoli, non è mai propositivo e l'unica cosa che fa è pisciare sul suo paese. Questo è inaccettabile. Per carità, io non sono un suo lettore, ma l'ho guardato con grande rispetto quando ha iniziato a fare politica. Poi quando sento parlare onorevoli come il signore di prima, che fino a ieri guadagnavano 200 euro al mese e oggi ne guadagnano magari 3.000, e allora? E restituiscono i soldi, ma è facile per tutti, anche lei se le offrissero di guadagnare tre volte tanto di restituirne una parte, guardi, lo farebbe. C'è una cosa positiva, al di là dei giudizi che si possono dare su quello che hanno fatto i 5 Stelle fino adesso, la restituzione dei soldi del finanziamento pubblico, 40 milioni di euro restituiti, punto e basta. Scusa, Andrea, sono d'accordo con lei su questo. Ci sono poche discussioni, ho capito, ma le pare poco. Solo su questo. Ma non si può battagliare, d'accordo, sicuramente ci... Ma ci vuole pochissimo in Italia, perché come il fisco viene a chiedere a me che cosa ho fatto e sa benissimo che cosa sono le mie proprietà, quali sono, ci mette un quarto d'ora befera con tutta quella gente che c'ha a vedere tutti i politici cosa hanno rubato in questi anni. Manca la volontà di farlo. Va bene, perché... Andrea, grazie. Gianni da Bergamo. Buonasera, Cruciani. Dica. Volevo dire, io ascolto spesso Radio 24 e a volte sono d'accordo, a volte no con quello che lei dice. Vabbè, però allora... magari questa sera voglio proprio intervenire perché non mi trovo d'accordo assolutamente su quello che lei ha detto, che è d'accordo sull'idea di Grillo di buttare, per quanto riguarda l'Expo, di buttare tutto in aria. Bravo. E tutto a rotoli. Io sono molto amareggiato e deluso dal suo intervento, in quanto mi sarei aspettato da lei una critica costruttiva su come stanno portando avanti e stanno organizzando Expo 2015. Sì. Però, ma io questo l'ho detto sin dall'inizio, l'ho detto. Però mi perdoni, con tutta la gente che sta investendo tempo, denaro e ha una grossissima aspettativa su questo, su Expo 2015, che il nostro paese ci sta portando questa grossa aspettativa. Quindi io quando sento uno che sposa l'idea di Grillo e dicendo che vuole buttare tutto in aria, io non sono assolutamente d'accordo. Allora beccate per questa Expo inutile per 6 mesi su temi che nessuno conosce, nessuno si ricorda le altre esposizioni universali, ormai le fiere è roba vecchia, vecchissima, le opere si devono fare normalmente, senza bisogno di grandi eventi. Marcello da Milano. Buonasera. Dica. Giuseppe. Ciao, ma Parenzo prima di tutto. Vabbè, vai allora, Marcello, su. Ok, lo dica a voce alta però, signor Cruciani, ma se sua figlia decidesse di fare la zoccola una volta cresciuta, lei come la prenderebbe? Non ho capito, scusi, Marcello. A voce alta però, ci risponda a voce alta. Non ho capito, scusi, Marcello, vuole ripetere un attimo? Se una volta cresciuta la sua figlia decidesse di fare la zoccola, sì, lei come la prenderebbe? Guardi, sono domande ridicole. Sono domande ridicole, Marcello. Sono domande francamente ridicole. A parte che uno quando cresce ed è maggiorenne può fare quello che vuole e il padre può veramente poco. Le posso assicurare che si può veramente poco in certi momenti. Per cui non le so rispondere, non lo so. Cioè, non... Ma io non ho detto che. Io non ho detto che è un. È mascherina che non sei altro. Senta, professore, rispondere. Il punto è un altro. Ci sono delle persone che volevano fare un mestiere e ne fanno un altro. Ci sono persone che volevano fare una cosa e invece ne fanno una completamente diversa. Ci sono delle persone che si guadagnano da vivere, magari non per tutta la vita, facendo le puttane e i puttani. Io non ci trovo niente di strano, ovviamente, ove non ci sia, ove non ci sia la schiavitù, eccetera, eccetera. Ok, ultima cosa, ma siamo sicuri che non si è mai drogato nella sua vita? Ce lo dica. Chi? Lei non si è mai drogato? No, francamente non mi sono mai drogato, però se a lei fa piacere pensare che mi sia drogato, sono affari suoi. Senza offese, la faccia da tossico ce l'ha, sì. Senza offese. Magari c'è un'impressione. Ma guardi che... La faccia da roboso ce sì. l'ha. Da? Non è un'offesa. Da che cosa? Roboso, di uno che... Da uno ah, che da roboso, eroina. Da roboso. Sì, ce l'ha, dai. Guardi... Lo dico, non si offenda. No, a me la droga mi ha fatto sempre schifo, per cui non c'è problema, ma sono talmente aperto che ho convissuto in casa e sono stato sempre circondato da persone che si sono fatte di tutto, cioè cocaina, hashish, canne, qualsiasi cosa. Io non ho toccato mai nulla, ma non lo dico così per esaltarmi, perché davvero è successo questo. Tu sei come una pizza. di Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Massimiliano da Roma, buonasera. Salve, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io intervenivo per la questione di Luciano D'Alfonso. Ho paura, sì, spero di no, magari mi sbaglio, che abbiate preso una toppa. Io non conosco personalmente D'Alfonso, ma sono, diciamo, originario di Pescara. È una persona seria, è stato sindaco di Pescara con un mandato di estremo successo. Avuto poi una, ma che c'entra questo? Scusi, non c'entra nulla. No, io mi sono limitato, mi sono limitato a riportare e a far sentire quello che ha detto sugli UFO. Sì, ma io ho la sensazione sempre che gli UFO lui si potesse riferire. Sono curioso. Può darsi, anch'io. Si voleva riferire a una trivellazione, a pale eoliche, cose del genere. No, cioè, gli UFO con le pale eoliche non c'entra assolutamente nulla. No, però magari se continua nell'audio si sente che per UFO lui intendeva trivellazioni petrolifere, paleoliche, e che so UFO quelli là. Ma io le posso chiamare in un pezzo del discorso UFO, poi se proseguono la discussione magari scopro che mi riferivo genericamente a qualcosa di tecnologico che stavo chiamando UFO in quel pezzo della discussione. Ma scusi, è abbastanza chiara, se vuole gliela faccio risentire, cioè gli UFO si sono messi in cammino, risentiamo sta cosa di D'Alfonso. Essendo originario di Pescara, che voi non sapete niente di Pescara. No, ma guardi, a me che non so niente di Pescara non me lo deve dire, perché ho una parte della mia famiglia lì, per cui questo è una cazzata. Io conosco benissimo Luciano D'Alfonso, che cosa ha fatto, cosa non ha fatto, le dimissioni da sindaco di Pescara, la vicenda giudiziaria, l'uscita da quella vicenda giudiziaria, altre vicende giudiziarie, ma questo non è importante adesso, questo personaggio non lo conosce nessuno a livello nazionale. Sentiamo quello che ha detto questo candidato del Partito Democratico, poi magari ci sbagliamo e intende per UFO un'altra cosa, ma la cosa è abbastanza evidente. Il mare Adriatico sarà il parco più grande di cui dispone l'Abruzzo e noi lo rispetteremo come è giusto che accada, sia dalle invasioni degli UFO, perché ci sono UFO che si sono messi in cammino, ma poi riconcilieremo l'acqua salata del mare con l'acqua dolce dei fiumi. Vabbè, gli UFO che si sono messi in cammino potrebbero essere anche così. E chi l'acqua mina... salata del mare penso che si riferisca a un parco col fiume Pescara, con qualche vabbè, fiume, ma quella insomma, è l'acqua salata, non c'entra niente. Gli UFO che si sono messi in cammino magari è quelli che vogliono minacciare quel parco, non lo so. Comunque ha detto gli UFO, si arrenda Massimiliano. Ecco con noi, caro Parenzo, una persona che conosciamo bene, che è in corsa per un posto all'Europarlamento, però Berlusconi appoggia altre persone in quella circoscrizione e dunque il partito insomma la sta un po' fregando, amico mio, diciamo tutta la verità. Susi De Martini da Genova, europarlamentare di Forza Italia uscente, ecco. Buonasera. Buonasera a tutti carissimi. Come andiamo? Insomma. Bene, io non sono un UFO. E quindi lei è un po' un UFO. Il suo partito è un UFO. È vero, avete ragione. Senta, avete ma ragione. Diciamo la verità: ma come la tratta Berlusconi? La tratta in maniera pessima. Cioè... Ma Berlusconi in sé per sé non mi tratta, nel senso che io non sono nel cerchio cosiddetto magico e non sono neanche figa. Udite, udite. Una candidata all'Europarlamento di Forza Italia normale. Ah, lei è normale, quindi, nel senso dice non è figa, cioè non è una bella ragazza, no, di queste. Ma normale, insomma, ho due figli, marito. Beh, una signora di una certa età. Non diciamo che età, però comunque una signora. No, non diciamo che età. Una signora. Però per fare il medico, sì, ricercatore universitario, occuparmi a livello internazionale del nostro paese. Non ritengo che la bellezza e la giovinezza siano i fattori fondamentali, siamo in un momento di crisi gravissima e quindi ritengo che le doti più importanti siano la capacità di lavorare per il nostro paese. E invece che succede? E succede che vengono, diciamo, proposte, presentate e spinte, diciamo, spinte, la parola che diciamo usano spinte, loro è portate, la parola che usano è portate. Vengono portate, sì. Portate dai coordinatori regionali, provinciali, alcuni personaggi, cioè elezioni che dovrebbero essere libere perché queste sono elezioni con le preferenze. Sì, e invece in il partito pilotate. È il partito pilota. Diciamola tutta, De Martini, quindi penso di chiedere osservatori internazionali. Addirittura, gli osservatori internazionali. Perché io ad esempio andrò in Egitto insieme a una task force europea a valutare la democraticità delle elezioni in Egitto, se ne potrebbe fare a meno, sono spese, però mi sembra che anche qua da noi, non scherziamo. Cioè, secondo lei Forza Italia smaccatamente appoggia alcuni candidati, in particolare candidate belle, diciamo la verità. Lei è una signora competente e che viene, come dire, spaventata. Momento, non sono bella, dipende dai gusti. No, non sono bella, proprio... intendo, non è giovane, in quel senso, voglio dire, non è giovane. Non sono maleducato, vabbè, dai, su, no, che ma c'è? Voglio dire, l'onorevole De Martini, diciamo, è forse un po' arrabbiata, perché a seguito di un'intervista che ha fatto con me al Corriere.it, assolutamente, qualcuno si è arrabbiato, evidentemente, perché... Beh, no, sì, perché chi si è arrabbiato in particolare? Ho ricevuto due telefonate non proprio piacevoli. Diciamo addirittura? Così. Addirittura? Mm-hmm. Da chi? Lo possiamo dire? Riveliamo questa erano, cosa. Posso dirla, fra di noi, incazzati come delle biglie. Addirittura? Perché? Sì. Perché? Perché io avevo detto quelle cose, poi in realtà io ho detto la verità. Ho detto che al Parlamento europeo andrebbero mandate delle persone preparate, che sappiano almeno parlare inglese, che facciano fare bella figura al nostro paese. E invece? E non persone, io ho usato il termine diversamente meritevoli, difatti Parenzo l'ha riso tanto, gli era piaciuto, però a loro non è piaciuto. Ma diversamente meritevoli chi lo sarebbe? Per esempio Licia Ronzulli è diversamente meritevole? Per fare un nome. È diversamente meritevole. Allora, perché ha organizzato feste, quindi non ha un curriculum. Non mi sembra che ci sia tante feste da organizzare in questo momento. No? Ha organizzato feste, lei dice a Villa Certosa, dice lei, no? Sì, però se va al Parlamento europeo penso che la manderanno per organizzare feste anche al Parlamento europeo, dato che quella è la sua competenza. Quindi mi chiedo che cosa ci sia da festeggiare in questo momento. Cioè, da andare lì a litigare per avere fondi europei. Ma si sono arrabbiati, chiede Parenzo, e che hanno fatto? Chi ha chiamato? Quanto si sono arrabbiati. Cioè, ma tanto, la Ronzulli l'ha chiamata, che cosa ha fatto? Sì. E questa telefonata com'è andata? Io non so se posso ripetere. Sì, ripetiamo tutto, ripetiamo. Era proprio molto molto arrabbiata e mi ha detto perché ci avevo detto queste cose. Perché cazzo aveva detto queste cose, sì. E perché, insomma, che lei sarei stata redarguita molto pesantemente, che lei è molto vicina, lei lo chiama il dottore. Sì. E che quindi ne avrei avuto delle conseguenze. Cioè l'ha minacciata? Ma io non so, insomma, io non mi faccio certo minacciare dalla signora. Un attimo solo, che abbiamo la pubblicità, poi torniamo. Ma la storia è pazzesca, ma ci sono faide pazzesche, Parenzo, qui, ci sono faide incredibili. Susi De Martini attacca alcune sue colleghe. Beh, qui non usare la parola casino, però. Perché... No, qui si scannano. Quando si scannano, le persone si scannano, a me piace molto. Però... No, ma casino, perché sembra che tu. No, casini, ho detto. Senti, allora, tutto nasce da alcune dichiarazioni. Diciamo la verità: ogni tanto Parenzo fa il giornalista, non lo fa da noi, lo fa da altre parti, ma è uguale, va bene lo stesso. Noi non ce ne frega niente, siamo contenti così. De Martini, Ronzulli e Zanicchi sono impresentabili. Questo ha detto, non è che l'ho detto io. Possiamo fare un po' di nomi di quelli che secondo lei sono gli impresentabili? Ma Ronzulli. Ma insomma, una che organizzava feste. Quella signorina non ha neanche il curriculum. Che è l'onorevole Ronzulli? Sì, dice. La Zanicchi invece ce l'ha e c'è scritto che è arrivata finalista a Castrocaro. Le mie colleghe sono diversamente meritevoli. Assieme ad un... Per quello che dovremmo mandare i migliori. E ad oggi com'è andata? Sono le preferenze. Che gente abbiamo mandato qua? Allora, molte persone non si sono informate e quindi hanno mandato quello che suggeriva il piatto riscaldato dei partiti. Ma lei parla anche del suo partito? Certamente. Le sue colleghe di partito come sono? Certamente. Le deputate che sono... Secondo me alcune sono diversamente meritevoli. Scusa Parenzo, sto cazzo di musica che c'era sotto, sì, che cos'è? Non hanno secondo me. Stupendo. Aspetta, fammi continuare, aspetta. Questa zanzara. Riprendiamo da là. Apre le mie finestre, calpesta le mie zolle. Io non ti amo più. Allora, dopo queste affermazioni della De Martini, ci sono state delle telefonate. Una o due, signora De Martini? Due telefoni. Una abbiamo detto alla signora Ronzulli, sì, che l'ha mandata, ha detto: ma che cazzo hai detto? Io sono amica del dottore. Chi è? Un medico? Dottore Berlusconi. E che è successo? Che è successo poi? Come è andata e questa conversazione? Ero già stata redarguita, devo dire, anche in passato dal coordinatore regionale del partito. Sì. Ovviamente mi ha detto, l'avevo detto io, di non metterti in lista perché fai sempre casino. e in realtà io sono orgogliosa di fare parte di quella buona Italia che deve essere in ogni partito. Mi piacerebbe fare anche un po' il rottamatore del centrodestra, no? C'è stato un rottamatore a sinistra e non vedo perché non debba esserci in Italia un centrodestra, un centrosinistra fatto da persone meritevoli, soprattutto quando si parla di rappresentanti in Europa. Quindi bisogna sapere l'inglese perfettamente, perché sennò è come dare un jet in mano a uno che non ha previsto. Vabbè, però restiamo a sta telefonata, restiamo a sta telefonata che è intervenuta. Cioè, sta telefonata, ma hanno fatto ma quante telefonate sono state? Due da parte, una Ronzulli e l'altra di chi? E l'altra del coordinatore. Ah, il coordinatore, vabbè, coordinatore non ci frega niente. Coordinatore regionale. Ronzulli che ha detto su Berlusconi. Loro devono fare avere i voti, i coordinatori sono quelli che poi saranno puniti se le candidate prescelte non avranno ottenuto il voto. Ah, beh, quindi certo, sono quelli che dirottano i voti, diciamo, dirottano i voti, organizzano. Ma io sono, non dico ormai sei serena, sono serena, non bisogna dirlo, perché uno ovviamente dopo quello che aveva detto Renzi a Letta, sei serena, non si può più dire, ma io credo che queste cose facciano arrabbiare ancora di più le persone per bene, che quindi non portino poi tutti questi consensi a queste persone. Per me è un esperimento. Scusi, però lei ha detto, vorrei vedere quanti voti prende Ronzulli, perché è un esperimento scientifico, no? Però scusi, non come un attimo, quello degli UFO. No, certo, d'accordo, però io le dico una cosa, questa telefonata com'è andata? Cioè, su Berlusconi che ha detto esattamente, cioè io avvertirò Berlusconi, te la faccio pagare, cosa ha detto esattamente? Eh beh, sicuramente, no? No, ma se non me lo dice lei, cosa ha detto? La sua posizione è una posizione di privilegio e di forza, quindi è stata messa in lista ed è in realtà portata per essere votata al Parlamento europeo, io presumo per avere un'immunità parlamentare, perché mi sembra sia coinvolta nel processo Ruby. Beh, questa è una cosa gravissima quella che lei dice, cioè lei si è candidata alla Ronzulli. Dico quello che pensa, vabbè, che d'accordo, cioè una si candida per ottenere l'immunità parlamentare, vabbè. No, una non si candida da sola, viene candidata dal partito. Viene candidata per ottenere la mulità. E ripeto che persone del genere non andrebbero candidate a rappresentare il nostro paese all'estero. Vabbè. Questo in nessun partito. Vabbè, non è però, una solo ha fatto Italia. 5 anni di Parlamento europeo pure la signora Ronzulli. Cioè, non è che non l'ha fatti, 5 anni. No? Vorrei sapere che cosa ha fatto in questo. Vabbè, su questo si può non discutere. È pervenuta, è come l'UFO del discorso. Però scusi, questa telefonata com'è andata? Questo voglio capire. Cioè, magari era arrabbiata. Era molto arrabbiata. Era arrabbiatissima. Ha chiesto come mai io avevo fatto quelle dichiarazioni. Dunque, hai detto? Ma come mai ce l'hai con me? Io ovviamente non ce l'ho. Ma su Berlusconi che ha detto? Ha detto che Alberto Berlusconi che non farai più parte di Forza Italia. Che ha detto esattamente? Questo mi sembra altamente improbabile, anche perché no, ma che ha detto lei? Questo voglio capire. Ma tutta una serie di, non è che poi il discorso fosse molto chiaro, era talmente arrabbiata che è andata più sull'insulto che addirittura non sulla proposizione. Cosa gravissima, cioè, la proposizione è un qualche cosa che ha un costrutto, mentre invece se uno è arrabbiato e ti insulta, però, tu ti prendi scusi però Biasotti, che lei gli ha detto che è impresentabile, che organizzava le feste, che in Parlamento non fa niente, che è diversamente meritevole, uno si incazza pure o no? Scusi, quello ha diritto pure a incazzarsi la signora Ronzulli o no? Secondo me dovrebbero arrabbiarsi di più gli italiani. Vabbè, ai quali vengono proposte persone del ma genere. Ma siete nello stesso partito, signora De Martini. Ma guardi che in tutti gli altri partiti ci sono persone in un modo e nell'altro. Non è che Forza Italia abbia chi mandato c'è? Solo aspetti, aspetti un attimo. L'ha mandato l'UDC. Aspetti un secondo. Altri personaggi. Qualche giorno fa hanno arrestato 4 personaggi, 2 del PD e 2 del nuovo centrodestra, quindi mi sembra che sia un problema diffuso in Italia. Ma c'è perché lei dice che può essere perché lei dice che può essere arrestata, scusi. Chi? La signora Ronzulli. Ah, io non lo so, quello decideranno i magistrati. Ma che c'entrano i magistrati con la re? Ma sta dicendo delle cose pazzesche. No, però. Vabbè, scusi un attimo, che però mi avvertono la regia che chi è? Ronzulli? Buonasera a tutti voi, buonasera cara Susi. Ciao carissima. Ma che piacere sentirti, è sempre un grande piacere sentirti. La cosa che la cosa che mi sembra un po' strana è che fino a ieri eravamo allegre, eravamo d'accordo, cioè, francamente essendo un po' dal pero, ci rimango anche un po' male, non riesco a capire perché, però insomma... dal pero? Ma scusa, hai fatto questa telefonata, signora Ronzulli, lei ha fatto questa telefonata un po' di minaccia, come dice la signora De Martini, dicendo non puoi dire quelle cose, così sì o no? E questo è... Ma... Ma quale telefonata? Di che telefonata stiamo parlando? Perché di questo parlo. Della telefonata che mi hai fatto ieri, Licia, perché mi hai detto come mai avevo dichiarato queste cose a Parenzo. No. Non mi hai fatto una telefonata? Io ho detto, io ti ho fatto una telefonata, certo, e ti ho detto, scusa, mi fai capire perché hai detto queste cose? Mi sembra una domanda legittima. Considerato che ci eravamo viste fino al giorno prima tutte d'amore d'accordo, sono rimasta un po' male. E tu mi hai anche detto, no, ma guarda che non è una roba recente, l'ho fatta un mese fa, poi ero arrabbiata per quella famosa cena fatta con i consiglieri regionali a Liguria, però francamente per me era una polemica messa da parte, quindi siccome ci siamo anche viste, abbiamo fatto il giro insieme in Liguria, siamo andate a braccetto fino all'altro giorno, io ieri ti ho chiamato e la mia telefonata era ovviamente non minacciosa per altro, cioè proprio per nulla, e ti ho detto ma scusa Susi, ma mi avviso di questa agenzia, l'hai detta, cioè una domanda legittima, e tu mi hai detto ma no, ma non è una cosa, figurati, non l'ho detto adesso, l'ho detto un mese fa a Parenzo, cioè non era una telefonata. La cosa è questa, e non è che l'abbia detto Gesù Bambino, l'ho detto a Parenzo, l'intervista era a Parenzo, questo però mi sembra... La signora De Martini ha detto prima, la signora De Martini ha detto prima a lei Ronzulli che lei si candida solo per l'immunità parlamentare, questo ha detto prima, ha sentito allora, pure lei. Io direi, vorrei dire una cosa, intanto vorrei scusarmi con chi sta ascoltando la radio in questo momento, perché credo che stiamo offrendo uno spettacolo pessimo di quello che può essere la politica. Siccome sono stata chiamata in causa, mi scusi Cruciani, peraltro non stavo ascoltando la radio, mi hanno avvisato, ci sono rimasta così, sono rimasta. Ma un è po' vero stupita. Che lei ha minacciato la signora, ha insultato la signora De Martini con una telefonata, sì o no? Di questo stavamo parlando. Io non insulto nessuno, non ho minacciato nessuno e io francamente rimango male del fatto che lo vengo a sapere dalla radio e dalla Susi in questo momento. Mi rendo conto che a voi, Cruciani e Parenzo, e la zanzara tutta in questo momento state godendo perché vi stiamo offrendo tantissimi punti di agenzia. Perché questa godendo, è la verità. Che io dico solo, mi scuso per chi sta ascoltando la radio perché ripeto questo casomai lo facciamo noi. No, però scusate, a questo punto devo parlare io. È vero che ci sono dei candidati portati dal partito? E che devono essere votati e che vengono portati dai coordinatori regionali. Ma quello fa parte della vita, però signora Martini, fa parte della vita. Fa parte della vita quella roba lì. Alcuni sono più appoggiati, altri meno. Visto che ormai stiamo praticamente dialogando con 60 milioni di elettori in quattro alla radio, io faccio una campagna elettorale differente. Io faccio una campagna che non va a denigrare, cioè nel senso non mi interessa gli altri colleghi perché lo devono fare, perché sono stati candidati. Però a noi interessano i fatti che sono stati detti dalla signora De Martini. De Martini ha detto ha dato dei giudizi su di lei. Però scusi Cruciani, perché francamente io ho dato dei giudizi in generale sul merito dei candidati alle europee, tra cui Ronzulli, anche Comi ad esempio. Secondo me Comi è una persona che non andava candidata alle elezioni europee. Non capisce niente nessuno. Allora, l'unica cosa che io voglio chiarire, puntualmente, io l'unica cosa che voglio chiarire è questa: c'è stata o no sta telefonata di insulti da parte della... Non c'è stata nessuna telefonata, ho solo chiamato. Io ero in macchina con i miei collaboratori, potresti chiedere ai miei collaboratori, peraltro ho detto, ma scusa, io ho ricevuto una telefonata o no? Licia, io ti ho chiamato, non lo nego, e ho detto, scusa, mi sono persa un pezzo, cioè cosa è successo dall'altro giorno a oggi, per cui io, l'altro giorno tutto bene, e oggi ricevo, vedo questa agenzia, tant'è che tu sei sceso dal pero e hai detto, ma no, ma è impossibile, fammi sapere che... E lei poi mi ha detto, no, è una cosa vecchia che ho fatto un mese fa. Vabbè, in campagna elettorale, vi state scannando per un po' di voti, dai, giustamente, per carità, la campagna elettorale... Stiamo offrendo a lei... Offrendo un bel servizio agli italiani, a me interessa, faccio questo mestiere perché ho voglia di dare un servizio. Va bene, d'accordo, però qui non stiamo discutendo, ma non me ne frega niente dell'agenzia. Ci tengo però a dire che non mi candido perché ho bisogno di un'immunità parlamentare, perché non ho bisogno. Benissimo, andiamo al merito. Questo è molto, deve essere chiaro. Sì, ma lo deve dire la Susi De Martini, non me, perché lei l'ha detto, non l'ho detto io. Io non vo- io non voglio entrare nella polemica con la mia collega. E allora, se non vuole entrare con la polemica, lo dico agli italiani che stanno ascoltando. Non ho bisogno dell'immunità parlamentare. Mi scuso per questo secondo me spettacolo indecente che stiamo offrendo. Perché l'ho fatto andare io. A parlare veramente lo spettacolo lo sta dando. Vabbè, l'ho capito, però su, sì, io non ho dato nessuno spettacolo. Ragazzi, devo mandare la pubblicità. Purtroppo devo mandare la pubblicità. Sì, Cruciani è contento. Ma io sono contento, è lei che ha chiamato, mica io stavo intervistando la signora De Martini. Ha chiamato lei. Mi sembrava il minimo. Pubblicità. Mi sembrava il minimo. Pubblicità. Oh, ragazzi, ricapitoliamo la situazione per quelli che possono essere interessati da questo scontro epocale che c'è qui alla Zanzara. Allora, Susi De Martini, europarlamentare di Forza Italia, dice delle cose contro con le sue colleghe, dice che sono diversamente meritevoli, che sono impresentabili, Ronzulli, Zanicchi, in parte anche Comi, dice addirittura che una persona... Mastella va al casino. Sì, quella è un'altra cosa. Dice addirittura che una delle candidate, sua compagna di partito, signora Ronzulli, vuole candidarsi per proteggersi con l'immunità. Le cose comunque gravi. Interviene la signora Ronzulli, giustamente incazzata per questa cosa, che dice, anzi no, poi aggiunge la signora De Martini, aggiunge anche che ha ricevuto, dopo queste cose che ha detto, una telefonata piuttosto incazzata da parte della signora Ronzulli, cosa che viene negata da parte di Ronzulli, che interviene qui. No, non viene negata, ha detto che ha telefonato, non ha negato. Ho capito, ha negato, però ha negato di aver insultato, cioè, ha negato di aver insultato. Questo bisogna dire. Mi ha chiamato per dirmi grazie. Ho capito, se lei nega gli insulti, adesso non ha la registrazione, purtroppo non ce l'abbiamo. Non siamo arrivati fino. Non credo che mi abbia chiamato per dirmi grazie. E che cosa le ha detto? Allora mi dica le parole che ha detto, esatto. Allora, intanto vorrei. Però mi dica le parole che ha detto, sennò ci perdiamo. Signora Martini, intanto non mettetela in una bega fra donne, perché io ma che c'entra le donne? Due persone. Ma a me non me ne frega niente che sono donne. Dei parlamentari italiani che non vanno e non sanno l'inglese. Vabbè, d'accordo. In mezzo ci sono anche Ronzulli, c'è Mastella, c'è De Mita, c'è Pirillo, quindi persone di tutti i partiti. Vabbè, d'accordo. Se questa vedete l'intervista che ho fatto all'ottimo da ma benissimo, quindi, d'accordo. Non è che dovete metterla in una. Ma chi l'ha messo con le donne? Fra le varie situazioni ve n'è una, mi ha chiesto tra i vari nomi, ho detto Ronzulli, mi ha chiesto perché non dovrebbe essere candidata, perché la Zanicchi, ho detto, perché non hanno nemmeno un curriculum. La Zanicchi, il fatto che sia andata in finale a Castrocaro, vabbè, non la rende un buon parlamentare europeo. Facciamo una brutta scusi figura, ma lei ha detto italiani, un'altra chiaro? Cosa ha detto che organizza le feste, organizza solo le feste, signora Ronzulli, questa allora la signora Ronzulli è notte è stata messa in Parlamento perché organizzava le feste a Villa Sertosa. Ronzulli, questo dice Ronzulli, qua siamo che allora cavolo. Caro Cruciani, io francamente sono finito quasi il tempo, perché io faccio una campagna elettorale differente. Ma ho capito, non ma so, lei ha chiamato noi colleghi. Io voglio chiarire, se lei mi fa parlare, perché adesso se no mi tocca prendere la macchina da Spezia e venire in trasmissione per poter parlare, arrivo con la trasmissione finita. Allora, mi ha chiamato semplicemente perché mi preme, siccome ho avuto sms di amici che mi hanno avvisato, stavo seguendo la trasmissione, mi premeva dire, non ho chiamato insultando, avevo due collaboratori in macchina, tra cui una era un po' incazzata, un amico, era incazzata, ma un amico anche della signora dell'onorevole De Martini. Poi? A Genova ieri. Poi non ho detto, anzi la telefonata è stata non a modo, di più direi quasi mielosa. Cioè ho chiesto come mai e lei ha detto ma no, era una roba vecchia, un po' di ruggine che c'è stata tra colleghi e può capitare. Poi, punto secondo, faccio una campagna elettorale e francamente io sto perdendo del tempo, devo andare dagli elettori abbiamo bisogno di Europa. Tre, non ho bisogno dell'immunità parlamentare per due motivi. Il primo, vorrei chiarire a tutti che l'immunità parlamentare del Parlamento Europeo copre soltanto non ha bisogno di immunità parlamentare, benissimo. Due, non sono indagata, non ho un processo, cioè non mi interessa. No, ma ha detto che lei è stata candidata perché organizzava le feste, questo ha detto. Ma non è così, ma io francamente non voglio cadere nella provocazione, ripeto, le persone che mi conoscono, che mi hanno votato, che mi hanno seguito in questi cinque anni. Allora, che cos'è la De Martini? Che cos'ha? Risentimento? Perché dice queste cose? Perché ha risentimento? Di raccontare al mondo intero smentire una roba che non è vera. Allora, perché la De Martini, che è sua collega di partito, dice queste cose? Per prendere un po' di voti? Perché ha risentimento? Perché è pazza? Perché lo dice? No, questo lo deve chiedere all'onorevole De Martini. Chiedo a lei cosa ne pensa di queste cose. È che mi dispiace molto, francamente. uno, due, mi dispiace per chi ascolta questo spettacolo, ripeto, questo... tre, mi dispiace, sto perdendo il tempo, perché secondo me la campagna elettorale è fatta in un altro modo, non è fatto sparlando dei colleghi, Parenzo, ma raccontando dimmi. Quello che no, uno volevo capire questo, anni. Siccome oltre a quello che abbiamo sentito che ha denunziato Lore De Martini, c'è l'altra cosa. Denunziato, ha fatto a denunziare. Denunziato, nel senso che ha, come dire, detto, raccontato, no? Biasotti, allora... il coordinatore della regione Liguria. Vabbè, dai, ragazzi, e lei lo è. Però l'altra cosa è questa. No, scusate, qua c'è una questione di merito, però. Allora, cioè, qual è il merito? Ci sono delle elezioni molto importanti queste, sì, perché l'Italia è in una vabbè crisi gravissima. Dunque? Ma poi voglio dire, noi dobbiamo andare in Europa i migliori, in ogni partito. E dunque, secondo lei, la Ronzulli è una che non è degna. La Ronzulli non è degna, giusto? Non sa parlare una parola d'inglese, è stata candidata perché una persona vicina al presidente Berlusconi organizzava le feste a Villa Certosa, come la Minetti ad Arcore. Sentitevi le intercettazioni Minetti-Ronzulli e vi divertirete. Ronzulli? Quindi io faccio una cosa serissima. Io faccio una cosa serissima, io non perché voglio, io non voglio andare in Europa in questa persone politica. Mi sembrava preparate. Francamente, e non mi sembrava, quelle. Un attimo. E non quelle stata che vengono messe con un diktat dalle liste dei partiti. Ronzulli, risponda. Libere con la preferenza. Rispondo che non esiste nessun diktat, rispondo che non è stato quello il motivo, rispondo che le telefonate di cui parla De Martini sono totalmente contestualizzate. E cosa? Io dico solo questo, ripeto, mi spiace che dica così, preferirei non andare oltre in questa telefonata. Vabbè, adesso vi saluto e vado dai miei elettori, perché il passo successivo è una querela. E io non ho voglia di querelare a nessuno, francamente, in campagna elettorale, perché non lo trovo giusto. Penso che si debbano utilizzare strumenti differenti. Vabbè. E non lo sputtanamento senza nessun tipo di cioè la sta sputtanando, verità. La sta sputtanando, certo, in questo momento. Certo, senza verità. Non sono indagata, non ho processi, francamente quello che dovevo dire l'ho detto anni fa. Ma la signora De Martini è dentro Forza Italia? Anni. È dentro Forza Italia? È vero che lei le ha detto che Berlusconi avrebbe preso provvedimenti in questa telefonata se lei continuava a fare così, sì o no? Scusi? È vero che lei nella telefonata la signora De Martini ha detto Berlusconi, poi io sono amica del presidente, sono vicina al presidente, al dottore, dunque ci possono essere conseguenze? Assolutamente no, io non ho sentito questa cosa alla radio. Se lei mi dice che la signora De Martini ha detto così, potrebbe scattare la querela, perché io non uso mai così ha detto il nome di Berlusconi, francamente. De Martini cosa ha detto? Questa... Guardi, allora, la Ronzulli usa sempre il nome di Berlusconi, tanto è vero che nella telefonata ci si riferiva anche a una cena in cui lei aveva invitato ad Arcore tutto il coordinamento. Vabbè, ma poi io non voglio però parlare di questo, cioè il fatto che la Ronzulli sia legata la vuole querelare, che arriverà querela forse a questo, se lei pensa che sia una cosa brutta dire che è legata a Berlusconi, che quereli pure, vorrà dire che si vergogna di essere legata a Berlusconi. Io non mi vergogno di essere candidata in Forza Italia, perché vorrei rottamare in Forza Italia vuole rottamare tutte la Ronzulli? Negative vuole rottamare... ma non la Ronzulli particolare, ho vuole che me ne importa, tra cui tra le persone in vuole realtà rottamare vorrei Ronzulli. Che Forza Italia, che ci fosse in Italia un centrodestra serio e un centrosinistra serio, perché la Ronzulli dove non è seria? Portate avanti la Ronzulli le persone è di seria merito. O no? La Ronzulli è seria? Io o no? Parlo di merito, io parlo di non ha nessun merito. Benissimo, non ha io nessun dico merito. Qual è il curriculum di questa persona, se voi andate sul sito del Parlamento europeo il curriculum non c'è, francamente non c'è. Il merito, se voi digitate il sito del Parlamento europeo il merito lo stabiliscono gli elettori e i migliori sono quelli che prendono più voti. Stai perdendo questo tempo, pure è vero, chi voti prende più voti prende più voti. Voti va bene, un io attimo solo, un attimo solo, i miei elettori da convincere grazie, di andare ciao, a votare, ciao. Visto che ormai non andrà più a votare nessuno. Beh, anche grazie a questi spettacoli, ciao. Oh ragazzi, che fatica. Io voglio sapere un'altra cosa però da De Martini prima di lasciarla, ed è questa, no? Se n'è andata, che ha fatto? Beh, i cessi là, i box doveva scopare Sgarbi, dove andava a scopare Sgarbi il Parlamento europeo. Fallo sentire, ragazzi, adesso a parte i litigi tra di loro che ci hanno occupato metà del palinsesto stasera, cioè una cosa spettacolare, se ne sono dati tanta ragione. Mario da Brescia. Buonasera. Dica. Volevo solo chiedere cos'è questo questo cambiamento di trasporto, che tutto l'est Europa viene in Italia a lavorare sotto prezzo con le regole del loro paese, lavorano qui in Italia con i nostri veicoli. No, ma non ho capito, scusi Mario, adesso noi siamo arrivati a parlare di altre cose, adesso lei si mette a parlare di autotrasportatori stranieri, ma di che stiamo a parlare? Sì, sto parlando delle aziende di trasporto italiane che licenziano gli italiani perché sono molto più costosi, perché abbiamo un regolamento, un contratto di lavoro, e assumono tutto Est Europa sotto prezzo usando i nostri veicoli. La legge dice che le targhe devono essere italiane. Cioè lei dice utilizzano lavoratori stranieri pagati, sottopagati all'estero per fare lo stesso lavoro che fate voi. Questa è la sostanza. Certamente. E c'è evasione fiscale totale. Vabbè, adesso poi approfondiremo questa cosa. Proprio un ultimo minuto con Susi De Martini dopo questa battaglia pazzesca, perché io non ho capito bene la storia dei la storia dei box di Sgarbi, quella che ha raccontato a Parenzo. Qual è la storia dei box di Sgarbi, onorevole De Martini? Ma ci sono dei box un po' appartati al Parlamento europeo che sono soprannominati box Vittorio Sgarbi, perché pare che Vittorio Sgarbi li usasse per portare lì le sue conquiste quando era parlamentare europeo. Ora io, per rispetto proprio per gli elettori e per il Parlamento europeo, credo che sia importante veramente mandare a Bruxelles a Strasburgo delle persone serie, per bene, preparate. Vabbè, ma i box, ma che faceva Sgarbi là, in questi box? Trombava? Ma io non c'ero e quindi che ovviamente si dice? Non posso che si dire dice? Nulla. Quello che si tramanda, modello fiaba, sono queste gesta, diciamo, eroiche. I boxini, che spettacolo. Di Vittorio Sgarbi, che utilizzava il suo tempo al Parlamento sempre europeo. Sempre numero uno, Per sedurre le ragazze. Ma chi seduceva? Ma che abbia fatto. Chi seduceva? Io sono Parlamento europeo commesse, da un anno. Le commesse, chi seduceva? Sono Vittorio, chiamaci, è vero che ti trombavi le commesse, che ti portavi le donne e te le facevi all'interno del Parlamento europeo, nei box del Parlamento europeo. Posso dire una cosa, ce ne fossero di persone intelligenti come Sgarbi. Ah, su questo non c'è dubbio. Europeo, su questo non c'è dubbio. Non vorrete mica paragonare Sgarbi con la Ronzulli, eh? Vabbè, io che ne so, adesso con me tracce la seta, Vittorio Sgarbi. Con me sfonda una porta. No, ma la De Martini dice di più, è molto preparata. Che dici, Parenzo? Non ho capito. No, dico che conoscendo ormai la De Martini da un po' di tempo, avendola sentita anche in quei giorni che era a Strasburgo, i dossier di cui si occupa, eccetera. Vabbè. Dico, lei è avvelenata, soprattutto per una cosa. Lei dice, ma scusi, io ho studiato, sono qui, conosco le lingue, sono venuta qui a tutte le sedute, eccetera. Quindi lei, nella intervista, poi non ho mandato tutto quello che c'era, c'era molto di più. Lei dice, ma cazzo, ma io sono così. Ma perché poi altri... Perché lei deve spiegarci bene questa cosa. No, però non deve spiegare, ormai no, è deve finito. Spiegare perché la Ronzulli riesce ad... Perché quando lei dice era coinvolta nel processo Rubio, organizzava le feste ed è venuta qui per questo, è stata candidata per questo. In realtà cosa vorrebbe dire? Vuol dire che sostanzialmente ha un rapporto preferenziale con Berlusconi, che lo ricatta? Cioè qual è la questione? Ma ricatta Berlusconi secondo lei? Questo è da capire, che lei non lo dice nella mia intervista. Onorevole De Martini, lo ricatta? Secondo me sì. Ah, ricatta Berlusconi, Ricatta no, io dico secondo me, perché non no, posso beh, certo, capire secondo come lei, mai questo una sempre persona secondo lei così possa essere candidata. Cioè c'è un ricatto. Io sono stata a testimoniare a un processo a Milano, quando Licia Ronzulli querelò un vostro e anche mio collega, perché poi sono giornalista anch'io, oltre che medico, e querelato Gianni Barbacetto, un giornalista del Fatto Quotidiano. Sì. E allora lui mi aveva chiamato a testimoniare a sua difesa. E quindi ovviamente ho partecipato al processo e mi avevano chiamato a testimoniare, non capivo perché io non la conoscevo neanche questa qua. E mi avevano chiamato a testimoniare per sapere come mai avesse potuto prendere 10.000 voti in Liguria senza mai essere venuta. Il meccanismo era chiaro, che avevano girato dei voti di partito senza mai essere venuta. Dopodiché Barbacetto fu assolto e vabbè, quindi ma io voglio capire una cosa da questa querela. Benissimo, ma lei dice ricatta Berlusconi, beh, questo secondo lei sempre. No, io non lo posso sapere. Io però mi chiedo come mai una persona del valore, perché di Berlusconi, che è un grande imprenditore, ho capito, è stato un politico, come mai manda a rappresentare il nostro paese delle persone così? Aveva candidato lei e la Comi, sono le due ragazze, e la Barbara Matera al sud. Erano tre quelle che Veronica Berlusconi aveva definito, ve lo ricordate come? Ciarpame, eccetera. Ciarpame senza pudore, per cui io fu contattata all'epoca dalla Presidenza del Consiglio, io lavoravo al Comitato Nazionale di Biosicurezza e Biotecnologie, mi fu chiesto di candidarmi dicendo cerchiamo delle persone con un curriculum internazionale per sostituire queste sei ciarpame senza pudore. Peccato che tre erano rimaste, di cui due nel mio collegio. Grazie, a presto, grazie. Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Cioè, ma cazzo! Avete distrutto questo paese! Mamma mia, secchie di merda! Ma vaffanculo, va! Avete distrutto questo paese! Mamma mamma mia, secchie di merda. Cioè, i comunisti prima hanno sfondato un paese per 40 anni, l'hanno ridotto a un cesso, e adesso parlano di meritocrazia. Loro poi parlano di meritocrazia, capito? No? Avete distrutto questo paese. Poi parlano di meritocrazia, capito? No? Avete distrutto questo paese. Loro che hanno diviso l'Italia in due. Ci sono gli statali che non li puoi fare un cazzo, non li puoi licenziare, non li puoi mandare via, gli devi dare lo stipendio oppure te rubano. Ma vaffanculo, vaffanculo. E poi ci siamo tutti noi di serie B, anzi C, Z, no? A seconda della condizione. Poi parlano di meritocrazia, capito? No? Ma cazzisti, tutto il giorno a non fare un cazzo, li vedo io giro, cioè, se faccio 40 appuntamenti al giorno, li vedo tutti ste secche con i razza, fatte i cannoni, con i libri, oppure andiamo al centro sociale, ma basta, no, vai al lavoro, impara un mestiere, poi te lamentano, no? Perché dicono che gli immigrati lavorano. Li danno tutti agli immigrati e te credo, pensa, mamma mia, secchie di merda. Parezzo, ma lo sai che hanno inventato un rap con le parole di Riccardo da Roma. Ma chi è sta gente? Parla più forte, Cristo. Ma chi è sta gente? Ma cos'è sta gente? Chi è che l'ha inventato questo rap? Un genio. Siete che veramente da fare, da dire le parole di questa. E dove lo suonano queste rap? Ma su internet esiste il web anche, cazzo. La rete. Esiste la rete, parla più forte. La rete. Senti Grillo che dice di essere curioso di natura. Senti, rimandatevi voglio il rap sotto, in sottofondo per 20 minuti, da qui alla fine. Ma come? Quel pagliaccio che c'hai a fianco, quel radical chic. Io voglio sentirmi europeo, io sono il più grosso europeista del mondo, mi piacciono le diversità, mi piace capire, mi piace sapere com'è il tuo sistema fiscale, come vivi, come ce l'hai, piccolo, grosso, mi piace. Sono curioso di natura. L'ho fatto per Canale 5 questa battuta. Idiota, avvocato delle cause perse, radical chic. Idiota, avvocato delle cause perse, radical chic. Senti, senti il design antropologico di Grillo, senti. Il design deve diventare antropologico. Adesso abbiamo oggetti che colloquiano tra loro, noi collochiamo con gli oggetti. Il telefonino fra un anno non c'è più. Avrai un occhiale, una maglietta che vocalmente dice chiamami Gino e l'occhiale ti chiama Gino. Gino, ci sei? E sei collegato al wifi, guardi, vai dentro un negozio, punti lo sguardo e vedi da dove viene il prodotto. Sei collegato a internet sempre con un oggetto, la maglietta. Avete distrutto questo paese. Hai capito, Parezzo? Sei collegato a tutto. C'è una cosa di più. Grillo lo dirà tra poco, ma te lo anticipo. C'è una penna, cazzo, ma che scrive da sola. Come da sola? Scusa. Cioè, spiegami, c'è col pensiero. Non serve avere l'inchiostro. Scrive da sola, manda gli input. Tu ti metti questa penna, vedi la penna, ce l'hai lì, collegata con dei neuroni, col computer, l'iPad, e dici devi scrivere, perché è cruciale uno stronzo. La penna scrive, senza che muovi il braccio. Sa già tutto. È così, è una penna automatica. In Germania c'è già, lo fanno. Non li puoi mandare via. E poi riprendiamo le due cose ormai diventate calde in queste due ore e mezza di Zanzara. Ho una forchetta che mi dice se mangio troppo veloce. Adesso molti mi hanno detto esiste. Io non metto in dubbio che esista. Tutto esiste. Ma perché? Perché? A parte che io non voglio che Grillo ne parli, perché non me ne frega niente di sentire Grillo. Sì, al teatro, sì, va benissimo. E poi io non voglio mangiare con una forchetta che mi dice se mangio troppo, perché mi viene l'angoscia. Cioè, mangio troppo veloce, dopo un po' mi rendo conto. Altrimenti è tutto computerizzato, tutto definito, tutto, no, incardinato in un qualcosa di drammaticamente anonimo. Io a casa c'ho una forchetta che se mangio veloce vibra e mi dice che cazzo stai facendo, poi non digerisci e te la prendi con chi? C'è lo spazzolino che... ma veramente, sono già in commercio. Gli spazzolini che lavi i denti e poi lo attacchi a un telefonino e ti dice come ti sei lavato i denti. Avete distrutto questo paese. Oh, ce n'è un'altra però, dopo il Giappone che col cesso che divide pipì e cacca, però questo cesso secondo me esiste anche in Italia in realtà, Sì, da qualche parte esiste. Secondo me esiste da qualche parte in Italia il cesso che divide pipì e cacca e poi alla fine va direttamente dal medico che ti fa l'analisi delle feci. Direttamente dal medico, subito. Appena esce la fece, subito. Ma scusa, ma c'è un tubo. Ma perché? Tubo. Mi viene angoscia, subito il medico ma mi dice e dopo due minuti ti arriva sull'iPad una mail il dove c'è anche l'odore della merda che sta, l'odore la puoi sentire nell'iPad, no? No, ma scusa, perché è l'iPad olfattivo, cioè tu funziona così, c'è un cesso con una tubatura che è collegata con l'Aslizona. Appena tu ti siedi e caghi, il problema è che se ad esempio a casa mia viene Cruciani, poi mi arrivano tutti i verdetti medici di Cruciani. Questo è un piccolo, dobbiamo ancora sistemare la tecnologia, ma è così. Aspetta un attimo, senti questa cosa sulle trenette al peste, alza sto volume del telefono del cazzo che hai. 40 appuntamenti al giorno li vedo tutti. L'aglio, io arrivo da, il pesto è fatto con l'aglio e il basilico. Bene, oggi l'80% del basilico arriva dalla Thailandia e l'aglio arriva dalla Cina. Poi ci metti una patata che arriva dalla Germania. E cazzo, fai due trenette col pesto che hai fatto un disastro ambientale in tutto il mondo. La teoria di Grillo è questa: quando tu mangi le trenette al pesto, sostanzialmente stai commettendo un disastro ambientale pazzesco. Ora dico, ma dai, su, ma va bene, lui dice non devono arrivare dagli altri paesi, l'autarchia produttiva, quello che vogliamo, saranno pure pensieri straordinari, bellissimi, quello che volete. E dai, però non è che chi adesso si mangia le trenette al pesto deve ritenersi colpevole di disastro ambientale, non è possibile. Ma sei un criminale, certo che sei colpevole. Ogni volta che mangi il sushi sei colpevole. No, il sushi no, il sushi no, dai. Ma non c'è, in Germania non esiste, solo gli Ust ci sono in Germania. Ah, che c'è la pescicoltura pure, pure la pescicoltura, vabbè, sentiamo pure la pescicoltura, dai. Ho visto macellerie indiane che buttano via prima lo scarto della macelleria, adesso dietro lo scarto c'è un'altra azienda che prende lo scarto e fa vermicultura con lo scarto della carne, poi prendono i vermi e lo vendono a un'altra azienda che fa pescicultura per gli anivermi, e la pescicultura, quello che caga il pesce, lo prendono e lo danno a quello che fa funghi cultura, e sparisce tutto e guadagnano tutti e sono tutti posti di lavoro. È questo il senso di produrre qualcosa per i prossimi 10 anni? Secchie di merda, hai capito o no? Ho sempre il commento del signor Riccardo risotto in campo, soprattutto. Senti su Schulz, poi chiudiamo Grillo, un po' di ascoltatori che mi sono rotto il cazzo, dai. Prima hanno sfondato un paese per 40 anni. Schulz, der Wind Schulz, il vento si sta alzando, Schulz, diventerà una tempesta, un tornado, Schulz, der Wind, comincia a aggrapparti alla Merkel, Schulz. Poi parlano di meritocrazia, capito? No, ma cazzisti, tutto il giorno a non fare un cazzo, li vedo io giro, cioè, poi non ti puoi neanche permettere di venire in uno stato estero a dire e a denigrare un movimento con 10 milioni di italiani. Quindi il vento, e noi ci ha definito un venticello, il vento si farà molto più forte. E allora io ti consiglio, caro Schulz, di cominciare ad ancorarti magari alla Merkel, che pesa un po' più di te, e ti verremo a trovare lì. Allora diciamo subito che il manifesto di cui tutti parlano oggi, che è quello di Paolo Brosio, sindaco di Prato, patria, famiglia, spirito santo, movimento Međugorje, vota Paolo Brosio per le elezioni comunali di Prato, esiste un 11° comandamento, vota Paolo Brosio, è un fake clamoroso, è un falso, cioè esiste il manifesto, credo che esista fisicamente, no? Esiste fisicamente questo manifesto, ma è chiaramente un falso clamoroso, Brosio è incazzato, ma insomma ne parleremo. E mi raccomando, pregate. Ciao, dipende. Arrivederci, un abbraccio. Paolo, scusa, preghiamo, dipende poi, no? Non è che tutti. Vabbè, Pino da Reggio Emilia, dai, volata finale, Pino. Ciao Beppe. Dimmi, ciao, dai. Calimero, ciao, dov'è Calimero lì? Chi è Calimero? No, Calirosso, semmai. Oh, Calimero, che ha detto che noi... del fan di Riccardo, siamo tutti dei cornuti, per quale motivo? Ah, lei fa parte del Riccardo Fans Club. No, cornuti, siete dei simpatici per di giorno, non cornuti. No, cornuti. Hai detto cornuti, Calimero. Beh, cornuti hai detto. Sì, cornuti è un modo di dire un po' scherziano. Iscrivetevi al Riccardo Fans Club di Roma. Per di giorno. Me lo vuoi spiegare perché siamo cornuti? Tesoro, io penso che lei sia un simpaticissimo perdigiorno. No, non mi devi chiamare tesoro, se no mi incazzo. Tesoro mio, sei un simpaticissimo perdigiorno, se hai tempo da perdere per diventare fan del signore. Ma perché Riccardo, uno non si può iscrivere, Riccardo, è il numero uno della comunicazione. Diciamo la verità, uno dei numeri uno assoluti. Uno si iscrive a Riccardo Fans Club, cioè, ma è normale, no? Cioè, ci sono tanti fenomeni, sarà meglio di tanti coglioni che prendono milioni di visualizzazioni. Ma tu cosa fai tutto il giorno, Calimero? Nanno ghiacciato, cosa fai? Beh, ghiacciato adesso, ghiacciato, che cosa che insulto è? No, a parte gli scherzi, ragazzo, adesso a parte tutto, a parte questa telefonata qua, io veramente volevo farvi notare che in rete c'era un filmato, no? Sì. Su Palazzo Chigi, una scolaresca che inneggiava a Renzi, i prof hanno portato questa scolaresca qua sotto Palazzo Chigi e inneggiavano a Renzi. Io mi vergogno per i loro genitori, ragazzini di 10 anni, 11 anni, è una vergogna proprio, no? Vabbè, ma quando vengono coinvolti i bambini è sempre una vergogna, anche quelli che sono stati messi sul palco dei leghisti là l'altro giorno. Cioè, quando ci sono di mezzo i bambini, bisognerebbe tenerli sempre lontani dalle cose elettorali, sempre sempre lontani. Grazie, Marco da Forlì. Marco, sono io, Marco. Allora, buonasera, signor Beppe, volevo affrontare un argomento velocissimo. No, no, aspetta, fermi tutti, chiudiamo in questo modo. Lo scherzo di ieri, che era uno scherzo, finto Moggi, Pippo Baudo. Luciano? Sì, buonasera. Ah, Luciano Moggi. Ciao, buonasera. Luciano, come stai? Come stai, Luciano? Ma stiamo bene. Dimmi, che c'è? No, io innanzitutto saluto il signor Baudo. Sì. E mi fa molto piacere che sia ritornato in auge, che faccia i programmi in Rai. E vabbè, questo d'accordo. Però mi stupisco che una persona così importante, di cui ho una grande considerazione, e che non abbia niente di meglio da fare che parlare in trasmissioni varie di me. Ma no, in questa trasmissione, aspetta, scusa Luciano, non è da signori quale lui vuole apparire, e poi io non sono stato condannato per corruzione, non ho corrotto mai io parlo sempre di te, innanzitutto perché siamo amici e non ho accuse personali da muoverti e rimproveri. Però c'è stato un processo, certo. Diciamo della ma parlate sempre di quello. Per la giustizia ordinaria. Aspetta, Luciano, fai rispondere un attimo. Scusa, Pippo, che dicevi? Io voglio dire, non è che io volessi accusare Moggi, io volevo dire fatto bene, i due scudetti la Juve li ha persi comunque, ed è stata retrocessa in Serie B. Ma anche questa è una storia sbagliata. Gli studenti della Juventus sono 32 e finiamola con questa storia, lasciamo perdere. Andiamo a barare. Gli scudetti vinti sul campo sono 32, se la matematica non è sul campo, però la giustizia sportiva. Dimmi. Ma è vero che due scudetti sono stati praticamente annullati con la retrocessione della Juventus in Serie B, sì o no? Sì, certo che sì. Luciano, questo è vero però. Luciano. Sì, ma io mi stupisco ancora, dopo tanto tempo, si va sempre nella stessa direzione, ma mi stupisco soprattutto di Pippo Baudo. Perché? È un personaggio che ho sempre ammirato tantissimo, un grandissimo professionista, e va a perdersi, poi dice di corruzione. Ma io non voglio offenderti per niente. Però è stato condannato, dai. Parliamoci chiaro. Ma perché tu che cosa rimproveri? Il fatto che abbia parlato di corruzione? No, allora bisogna specificare, lui ha detto che sono stato condannato. Allora specifichiamo, condannato per la giustizia sportiva, non per quella ordinaria. E vabbè, specifichiamo. Ecco, da Pippo Baudo mi aspettavo maggiore signorilità. Ho capito. Ultimamente, lasciami parlare, Giuseppe. Scusami, vedo che ultimamente signor Baudo ha perso la sua classe. Vabbè. Già da tempo l'ha persa. Ma questo è un altro discorso. Ho sentito che tempo fa ha parlato anche di signore e l'ha definito mignotte, e questo non è bello. Vabbè, Baudo, questo è un altro discorso. Ma lei, quello si riferiva a un'altra cosa, Luciano. Adesso non esageriamo. Luciano, non confondiamo generi. Ecco, allora vedi di non confondere. Io non voglio assolutamente offenderti, perché ti conosco e siamo amici, sì. E mi auguro che l'amicizia possa continuare. Io correggo se ho detto una cosa offensiva nei tuoi confronti, perché non sei stato condannato, ma soltanto la giustizia sportiva ha emesso una sentenza che ha determinato la retrocessione della Juve. E la radiazione di Luciano questo è accaduto. Ma io non voglio attaccare. Non si parla mai di altre squadre che avrebbero meritato la stessa situazione. soldi, perché di Moratti non parlate mai? È un altro discorso. Va bene, Luciano, dai. Va bene, Luciano, grazie. Grazie, Luciano. E adesso parlano di meritocrazia. Loro poi parlano di meritocrazia, capito? No? Avete distrutto questo paese. Poi parlano di meritocrazia, capito? No? Avete distrutto questo paese. Loro... C'era Marco da Forlì per l'ultima stoccata. Marco, vai. Sì, pronto. Allora, volevo darti ragione, Beppe, per quanto riguarda le prostitute. Devono cioè? Esistere. Devono esistere. Tanto esistono comunque, a prescindere da quello che pensi tu, o da quello che penso sono io. Sono d'accordo, no, perché ti hanno attaccato, invece devono esistere perché secondo me aumenterebbe la violenza sessuale sulle donne, perché noi siamo anche, deriviamo dagli animali, abbiamo bisogno di fare sesso e quindi devono esistere perché a momento dell'esigenza bisogna andare alle donne e purtroppo... Ma lei va a puttane spesso? No, io ci sono andato, non mi vergogno a dirlo, qual è il problema? Ci sono capitato e ci sono andato. Ma lei fa il camionista? Perché io sì. Sì. Ma questa storia dei gay che non, ormai da tempo che non ne sento più parlare. Sono sì. Finiti i gay nelle aree di servizio. Vabbè, i gay ci sono sempre, ma io preferisco altro. Però, questo sì, non c'era sì. Dubbio. Parenzo, ci salutiamo, ciao caro. Ciao, a domani, caro. Ciao, ciao. Mamma mia, secchie di me. Le odio le zanzare. Ci massacrano. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.